E nuovamente in diretta riparte la sigla. Siamo in mostra per la prima volta in maniera un po' atipica, ma ci sono attinenze, le scopriremo subito con la voce dei protagonisti. A proposito di voci, intanto do il benvenuto a Lorenzo, che è qua in diretta con noi puntuale. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo per la Certosa 2024 e, come ben sapete, è mia abitudine portare colleghi più giovani. Per me tirocinio stage non esiste, per me redattrici e redattori, quindi colleghi, è un importantissimo, fondamentale, indispensabile aiuto che arriva per il Breakfast Club a completare i contenuti che vogliamo poi amplificare al pubblico di prima mattina sui 103.1 e non solo. Quindi la bellezza di alcune sedi espositive, la bellezza di alcune sedi in concerto come ad esempio il Torrione, il Jazz Club di Ferrara, la sede espositiva Magnani Rocca, ecco, diciamo che colleghe e colleghi più giovani e non di solito bolognesi che hanno avuto e non hanno, per meglio dire, la possibilità di frequentare abitualmente tutto ciò, perché no, una possibilità in più per conoscere e per addentrarsi in questi tesori, in questo caso il bellissimo e oltre deposito della memoria della Certosa. Quindi lascio a te, Lorenzo, la prima parte emotiva, non tanto da comunicato stampa o da notizie così didascaliche, ma un'impressione emotiva nell'entrare in questo museo a cielo aperto, in questa aula d'Ateneo immensa, in questi contenuti che danno in maniera tutti i tempi, oltre che emozione, una storicità e una spiritualità. Sei arrivato in Certosa e cos'è successo? Ho sentito la pace. Sì. È un luogo emozionante, di tranquillità. Spesso i musei si portano dietro, i cimiteri si portano dietro questo racconto di horror, di luoghi, di fantasmi, di paura. E invece ci si dimentica che forse quello è il vero e unico luogo di pace assoluta, la certezza della nostra vita, infatti, la morte. E giustamente appena entrato hai detto: oh, finalmente, senti che pace, che, sì, sì. Che aspetto particolare nel sentire ogni piccola sfumatura che viene tramandata dal passato e che ci comunica anche la natura stessa. La possibilità di avere un palcoscenico e una sede espositiva in Certosa, indubbiamente. E adesso entriamo in maniera, diciamo, più concreta nel programma 2024, fra l'altro con due esposizioni, è per quella che è arrivato in mostra, Lorenzo. Sì, sì, due esposizioni che vogliono riproporre e dialogare con le sculture presenti alla Certosa. Sì, e questo è un altro aspetto fondamentale per quanto riguarda l'eterogeneità della forma espressiva e artistica, culturale che c'è all'interno della Certosa. L'importanza per la nostra città e non solo. L'apertura, prima ho presentato la voce di Roberto Martorelli, che infatti ascolteremo a breve, ma io direi di partire per chi... Per quanto riguarda chi sta facendo un ottimo lavoro, non nella specificità della Certosa, in maniera molto estesa per tutto ciò che è settore musei civici di Bologna, con la direttrice Eva degli Innocenti, che ci dà un panorama, diciamo così, più olistico. Poi entreremo nel dettaglio con Roberto Martorelli. Sta arrivando, anche se non sembra, l'estate 2024. Quando ci avviciniamo all'appuntamento con la Certosa, c'è anche questo aspetto di appuntamenti all'aperto, oltre che culturali, di un'estetica meravigliosa. Siamo con Eva degli Innocenti, grazie per questa anticipazione, buongiorno. Buongiorno, un'altra edizione della rassegna estiva della Certosa, di eventi, arti performative, visite guidate, ma anche laboratori per famiglie, e grandi e piccoli. Una rassegna appunto che continuiamo a fare grazie alla nostra area di storia e memoria del settore Musei Civici di Bologna, in collaborazione con Bologna Servizi Cimiteriali, con il grandissimo supporto dell'Associazione degli Amici della Certosa. Anche un'attestazione della grande qualità, però anche di grande impegno, delle associazioni culturali del territorio che animano questa rassegna estiva, che unisce appunto più patrimoni culturali, anche quello immateriale, che unisce tutte le arti nel racconto di questo Escorial bolognese. Un elemento importante di novità di questo anno è che i quattro cimiteri monumentali e storici riconosciuti appunto dalla legge regionale dell'Emilia Romagna si sono uniti insieme per un progetto culturale e quindi in effetti abbiamo la possibilità di presentare nella rassegna che fa parte della rassegna estiva la settimana dei cimiteri monumentali e storici organizzata da ASCE con un programma federatore, quindi un programma unico fra questi bellissimi cimiteri. Vi aspettiamo tutti per passare con noi non solo l'estate ma anche un post-estate. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Ce ne sarebbe bisogno per una primavera, ormai si può dire primavera, estate, ma qui la bella stagione tarda un po' ad arrivare, sperando che si stabilizzi tutto ciò. Come ha introdotto l'argomento dal punto di vista emotivo Lorenzo, la possibilità, con o senza eventi, anche di una passeggiata nel deposito delle memorie monumentale della Certosa, per leggere un libro di poesie, per soffermarsi ad ascoltare il silenzio, per soffermarsi a leggere un epigrafe, per avere qualcosa che completa quello che probabilmente in questo periodo manca al nostro ascolto, al nostro spirito. Sembra una puntata a sfondo religioso, ma non è esattamente così, eh. Tanta emozione per me ogni volta la presentazione della rassegna Certosa, per me, a parte che diciamo è con l'arrivo dell'estate, anche se andrà ben oltre la rassegna. Sì, sì. Avrà modo di arrivare fino al 2 novembre, giornata di commemorazione dei defunti, e insieme a Roberto Martorelli abbiamo un inizio di conversazione per trovare anche informazioni, conoscere altri depositi della memoria e i protagonisti in Certosa di questa edizione. È un pozzo di conoscenza, Roberto Martorelli. Sì, mi ha colpito particolarmente. Stagione Certosa Estate 2024, William Piana e Lorenzo Pauri per Radio Città Fujiko in compagnia di Roberto Martorelli. Buongiorno e ben ritrovato, Roberto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Cominciamo la nostra conversazione appunto dalle novità di questa estate 2024 in Certosa, poi scopriremo non solo. Cosa ci puoi dire, Roberto? Allora, la novità è che siamo già alla 16ª edizione, teniamo botta, come dire. Poi le novità rispetto agli anni precedenti è che quest'anno abbiamo ben due mostre,